Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Settimana scorsa abbiamo parlato della diffusione delle scatole nere a bordo delle automobili, diffusione a cui il recente decreto liberalizzazioni ha spianato la strada. In gioco, come sappiamo, c'è la possibilità di ridurre drasticamente le truffe alle assicurazioni e di conseguenza i premi assicurativi per chi accetta di installarle diminuiscono anche sensibilmente. Ma l'installazione di questi dispositivi apre la strada anche ad altre applicazioni, come quella di cui Chiara Albicocco ha discusso con Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA, una fondazione che si occupa di prevenzione e sicurezza stradale. Parliamo delle scatole rosa. Sentite. Sono una sorta di scatola nera che però ha una serie di funzionalità aggiuntive. Oggi nel decreto di liberalizzazione si sta parlando di scatole nere per le auto, proprio perché hanno una funzione di identificazione della dinamica dell'incidente in modo preciso. In più, noi a questo tipo di funzionalità abbiamo aggiunto un tasto all'interno dell'abitacolo e un telecomando al di fuori, in un raggio circoscritto al di fuori dell'abitacolo, che consente alle donne, per cui il prodotto è specificatamente per le donne, e da qui il nome scatole rosa, esattamente da qui il nome scatole rosa, che consente alla donna che è in difficoltà perché per esempio la macchina è in panne o perché ha un malore o perché ha invece subisce un'aggressione, di mettersi in contatto immediatamente con la centrale operativa che, a seconda dell'esigenza, manda o un carro attrezzi oppure l'ambulanza o le forze dell'ordine nel caso appunto malaugurato di un'aggressione. Questo modo abbiamo unito la sicurezza stradale e la sicurezza personale. Partiamo dal dispositivo. All'interno dell'abitacolo, diciamo che la donna mette questa scatola nera o rosa, che è un dispositivo a GPS, quindi geolocalizzante. Esattamente. La scatola rosa viene montata all'interno del motore, è completamente invisibile. All'interno dell'abitacolo invece c'è un tasto, come le dicevo, e il dispositivo, essendo un dispositivo satellitare, consente la localizzazione del veicolo che ha montato tale dispositivo e quindi consente l'intervento a seconda delle esigenze e della necessità, perché poi la donna fornisce il proprio numero di cellulare, la centrale chiama e in caso di esigenza di un carro attrezzi spiega che la macchina è in panne. Negli altri casi, se la donna non dovesse rispondere, si attivano immediatamente i soccorsi. Voi queste scatole rosa le distribuite gratuitamente, ad esempio a donne che fanno turni di notte e quindi sono più esposte, insomma, ai rischi degli spostamenti in auto? Sì, allora noi questo dispositivo lo stiamo distribuendo in maniera totalmente gratuita, nel senso che le persone, le donne che aderiscono, hanno il dispositivo gratis per 3 anni, non hanno costi né di installazione né di disinstallazione né di canone. In che modo si può aderire? Ci sono varie modalità, nel senso che noi abbiamo fatto degli accordi con alcuni enti locali, Roma, Milano, Monza, Brescia, stiamo ragionando anche con la regione Piemonte in questo senso, e in quel caso gli enti locali stabiliscono un criterio di assegnazione che solitamente è quello che lei diceva, e cioè quello di privilegiare le lavoratrici notturne che in qualche modo fanno dei turni che le portano a spostarsi appunto durante la notte. Nei casi in cui le distribuiamo noi direttamente ci sono varie iniziative. Noi facciamo dei corsi durante l'anno, per cui le donne su un portale che noi abbiamo, che si chiama Smania di Sicurezza, hanno un'area dedicata, possono fare dei percorsi di guida attraverso un simulatore, e le migliori ricevono la scatola rosa o ricevono dei corsi di guida sicura. Questo dipende dal tipo di attivazione che facciamo, e in quel caso non teniamo conto, diciamo così, di particolari esigenze di spostamento della guida notturna, ma del fatto che appunto la donna accede a questa cosa. Durante il giorno dell'8 marzo, per esempio, ne mettiamo in palio sempre 100-200 e chi si collega prima la riceve gratuitamente. Peraltro, bene, quindi ci siamo tra poco. Tra poco sicuramente ne metteremo in palio un centinaio sul nostro portale. Peraltro le modalità di installazione sono abbastanza agevoli, nel senso che noi abbiamo un accordo con i fornitori, segnaliamo il nominativo della donna che è interessata, la donna viene contattata dai fornitori e va, diciamo, nel installatore, nel luogo che è più più vicino a casa propria, quindi anche da questo punto di vista non ci sono problemi costi particolari. E siccome è già attivo da, mi sembra, circa 3 anni, quanti più o meno dispositivi sono stati distribuiti in Italia per ora? Circa 3.000. Oggi sono attivi circa 3.000 dispositivi sul territorio nazionale nelle modalità diverse di attivazione che le ho detto. E siccome appunto sono un po' di anni che attivo, avete avuto dei riscontri? Speriamo nessuno ne abbia mai bisogno, però insomma, per capire. Sì, abbiamo avuto un paio di riscontri in caso di aggressione. Uno in modo particolare a Monza, una donna che era soggetta a stalking appunto ha attivato il dispositivo e l'arrivo delle forze dell'ordine ha distolto, diciamo così, lo stalker da proseguire in questa sua diciamo così azione nei confronti della donna. Poi abbiamo avuto diverse richieste in caso di guasto meccanico, per cui è intervenuto il carro attrezzi. Ci sono stati anche degli interventi da parte del 118 nel caso in cui per esempio un incidente aveva provocato dei danni fisici, e quindi l'intervento del 118 è stato proprio più immediato per via della localizzazione di cui le dicevo prima. Guidoni, per concludere, se qualche donna fosse interessata a raggiungervi e a chiedere qualche informazione, dove vi trova? Si collega sul nostro sito www.fondazioneania.it o sul nostro portale che si chiama www.smaniadisicurezza.it, dove poi trova l'area dedicata alle donne e quindi le modalità di accesso per ottenere la scatola rosa. Ecco, lasciatemi fare solo un commento. L'iniziativa è quanto mai meritoria, così come il fatto che sia rivolta in particolare alle donne. Ma perché chiamarle scatole rosa? Dato che, insomma, anche i maschietti restano in panne, fanno incidenti e subiscono in qualche caso anche aggressioni. Insomma, l'utilità di un oggetto di questo genere non è certo una peculiarità femminile. Dopodiché è evidente che alcune donne possono trovare particolarmente utile questo oggetto. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.